Nicoletta, io sono stata sequestrata dalla realtà. Per cui una macchina della verità ambulante, senti, la donna molto però, una macchina della verità ambulante è una definizione meravigliosa, sì, e adesso me la appiccico su Facebook. Claudio, vada veloce. Sì, buongiorno. Allora, sono contento di aver superato la barriera rosa. La vostra radio è formidabile, si riesce a parlare. Cuore e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Che confusione, sarà perché ti amo, è un'emozione che cresce piano piano. Nicoletta, ma tu ti senti più ricca o più povera? Io mi sento la brunetta dei ricchi e poveri. Ma smettila, dai. Sembri un po' confusa stamattina, ma anche se ogni tanto fai confusione, sei una persona molto intelligente. Forse te l'ho detto anche in un'altra trasmissione. Chissà che cosa le direbbe Boris Johnson, il sindaco di Londra. Chi è povero e meno intelligente, aveva detto. Peccato che anche lui abbia dimostrato di non brillare con questa battuta e ha fallito il suo test del quoziente di intelligenza. Però oggi, più che misurare il quoziente intellettivo, ormai i ricercatori si concentrano sulla natura dell'intelligenza, che scopriremo è composta da più intelligenze. E d'altra parte, se tu pensi, che cosa ti fa dire di una persona? Quello è un tipo davvero intelligente. Probabilmente la stessa persona da me non sarebbe considerata tale, perché certo, ciascuno ha dell'intelligenza, un'idea molto personale. E invece, per definire una persona più o meno ricca, come dire, possiamo utilizzare un parametro che è un po' più forse preciso del quoziente di intelligenza, più rigido. Parleremo infatti oggi nel corso della nostra trasmissione dell'ISEE, che è il quoziente che misura la ricchezza o la povertà, un indicatore economico importante per accedere ad alcuni servizi o ad agevolazioni, che da poco è stato riformato anche per scovare i cosiddetti finti poveri. Però le novità ricadono anche su quelli veri di poveri. Allora 800 24 00 24 349 238 6666. Raccontateci se avete già provato a capire che cosa cambierà per voi e se avete dei dubbi sul calcolo dell'ISE e sull'utilizzo di questo indicatore, ma diteci anche se vi sentite intelligenti e se mai vi è stato, avete avuto occasione o siete stati costretti a sottoporvi a dei test per misurare il vostro quoziente intellettivo. A che numero siete arrivati? Bella domanda, adesso partiamo. Salva Danaio. Carità, carità. Ma che cosa fai, matto? Io no, ma te sì. Ce l'hai il permesso per l'elemosina? Ma come? Per chiedere la carità ci vuole il permesso? Sì, signore. E a chi devo chiederlo? Al sindaco? A me no, al sindaco. Questa zona è mia. Sempione, Monte Rosa, Piazza Castello è tutta roba mia, non sapevi o no? Vabbè, allora un povero diavolo che muore di fame cosa deve fare? E come in questo film, Renato Pozzetto si cala nei panni del povero su consiglio dello psicologo. Sappiamo che in Italia ci sono anche alcuni benestanti che si calano nei panni dei poveri, almeno sulla carta, per godere però di alcuni vantaggi. Avrete sentito parlare in questi giorni di una novità che interessa molte, moltissime famiglie, il cosiddetto riccometro, lo strumento pensato per combattere i finti poveri, quelli che vanno all'università con la borsa di studio ma a bordo della Ferrari di papà, per intenderci. Questo fantomatico riccometro non è altro che la versione aggiornata dell'ISEE, l'indicatore della situazione economica equivalente, quel valore che calcoliamo di solito recandoci in un centro di assistenza fiscale, che ci permette, a seconda dei casi, di inserire un bimbo nelle liste del nido o di non pagare l'università con il massimo della rata o di accedere per esempio al bonus energia. Ne parleremo questa mattina con Maria Carla De Cesare del Sole 24 Ore, che saluto. Buongiorno. Carla, buongiorno. E poi naturalmente avremo anche un altro ospite, lo saluto subito, Dino Giornetti, responsabile del settore ISE per il CAF CISL. Oggi ci aiuterà a rispondere anche alle vostre domande all'800 24 00 24 oppure al 349 238 6666. Hai qualche curiosità sull'Ise, Nicoletta? Ah, ne ho molte, ma aspetto che i nostri esperti ci raccontino, così farò delle domande intelligenti. Ecco, magari ti misureremo il quoziente di intelligenza anche sulla base della pertinenza delle domande sull'Ise. Hai visto stamattina che relazione io sono sotto trovato? Esame. Maria Carla, perché si è resa necessaria questa riforma? Abbiamo visto anche nei tuoi pezzi che hai scritto in questi giorni sul Sole 24 Ore, appunto, come il vice ministro dello sviluppo economico dal lavoro, la Maria Cecilia Guerra, appunto, l'abbia voluta fortemente questa novità. Perché? Sì, l'ha voluta fortemente. Beh, innanzitutto perché l'ISE è nato, o comunque insomma ha debuttato così come l'abbiamo conosciuto in questi anni, nel 98, quindi obiettivamente era uno strumento un pochino vecchiotto, perché non si teneva conto per esempio di tutte le novità che in qualche modo in questi anni sono state introdotte, anzi acquisite, per quanto riguarda le banche dati fiscali e l'anagrafe fiscale. Ormai le entrate hanno un patrimonio di dati relativi ai nostri redditi che è effettivamente molto molto rilevante. Quindi una delle prime intuizioni è: perché non mettere direttamente in relazione l'ISEE con le banche dati attraverso la mediazione dell'INPS? Questo cammino è durato un po' di anni, qualche anno, perché, come dire, l'INPS ad un certo punto è stata investita del compito di calcolare l'ISEE, e all'INPS si è dato anche la possibilità di accedere ai dati dell'anagrafe tributaria. Tutto questo, come dire, che è un cammino durato qualche anno per quanto riguarda i nuovi poteri dell'INPS, e poi confluito in questo provvedimento che in pratica valorizza molto di più il patrimonio immobiliare, quindi la casa pesa di più, pesano di più anche, diciamo, le difficoltà delle famiglie, quindi le famiglie numerose saranno un pochino più avvantaggiate, le famiglie con persone disabili saranno più avvantaggiate, il tutto tenendo conto anche in modo un pochino più realistico, attraverso le franchigie, le detrazioni, di quelle che sono le situazioni reali. Per esempio, se in una famiglia c'è un anziano a cui, come dire, viene affiancata una badante, tutto quello che viene pagato alla badante, compresi i contributi, naturalmente dovrà risultare dall'assunzione regolare, certo. Verrà in qualche modo calcolato. Esatto. E soprattutto se ne terrà conto. Non si potrà più mentire. Vedi? Sì? Tutto chiaro. Tutto io ero chiaro. Incantata. Ma questo perché tu hai quanto sei intelligente. È molto chiara, Maria Carla. Perché bisogna anche, magari uno ce l'ha in mente, ma esatto, perché uno può essere chiarissimo, in modo ma se l'altro chiaro non recepisce perché non ha un quoziente intellettivo molto, come dire, rilevante. Io ho capito, invece. Invece sono pronta. Allora, andiamo a Dino Giornetti per capire un po' che cosa succede agli sportelli dei centri di assistenza fiscale. Giornetti, buongiorno, benvenuto. Buongiorno a tutti. Eccoci qua. Allora, ci racconti un po', intanto ha scatenato grande interesse tra i contribuenti questa novità. Sono più intimoriti praticamente dal fatto che sicuramente non si potrà più mentire adesso, visto che questo strumento viene anche rilasciato, il cosiddetto ricometro, sulla base di notizie che il contribuente stesso dà, quindi sulla base di autocertificazioni. Oppure ci sono più speranze per famiglie che magari sono in difficoltà e che fino all'altro giorno, non so, per esempio avevano avuto difficoltà ad accedere ad un nido, come dicevamo in apertura. Insomma, qual è il grado di interesse che questa rivoluzione dell'ISE sta generando tra i contribuenti che chiedono la vostra assistenza? L'interesse è altissimo per entrambe le motivazioni che ha detto, in quanto i più bisognosi si sentono salvaguardati da questa nuova modalità di calcolo che dovrebbe garantire una certificazione più reale rispetto alla realtà. Allo stesso tempo c'è grande preoccupazione soprattutto per coloro che hanno dichiarato un dato falso e mendace, in quanto si sentono sottoposti a controllo, che è uno degli elementi principali di novità dell'ISE riformato. Certo, allora ne continueremo a parlare naturalmente nel corso di tutta la trasmissione. Vedo già alcuni ascoltatori che messaggi che riguardano sia l'ISE che il quoziente intellettivo. Tra l'altro, mentire per cercare di elaborare un ISE falso, mostra un quoziente intellettivo molto alto? La menzogna, secondo te, Nicoletta? Beh, la menzogna per raccontare bugie, insomma, ci vuole cervello. Abbiamo parlato di bugie, ma oggi non parleremo di bugie, ma di cervello, di intelligenza, con il professor Giuseppe Alfredo Iannocari, neuropsicologo e presidente di Assomensana. Buongiorno, professore. Buongiorno. Buongiorno loro. E benvenuto. Grazie. Per mentire, per Lisè, ci vuole intelligenza? Beh, la Quale intelligenza? Quale intelligenza? Sicuramente ci vuole scaltrezza per dare dati, diciamo, non veritieri sull'ISE e sulle altre faccende che riguardano il sistema fiscale. Sicuramente ci vuole una buona capacità di pensiero laterale, cioè inventare delle situazioni nuove, esporre anche le proprie argomentazioni in un modo convincente, per cui è un po', insomma, non è da tutti. No, è da l'evasore fiscale ha un buon pensiero laterale, ha quindi abbiamo capito questo stamattina. Sì, sì, sì. Vi voglio leggere alcuni messaggi. Rossella da Alessandria ci scrive: ognuno di noi è un genio, certo non si può classificare l'intelligenza di un pesce facendolo arrampicare su un albero. Einstein. Per me l'intelligenza è la capacità di usare la testa, c'è l'intelligenza pratica e quella più teorica. Ad esempio, io credo di avere un'intelligenza pratica, non a caso sono un'artigiana, è vero. Elisa. Ma i nostri ascoltatori ci stanno anche chiamando per l'indicatore di povertà, e oricometro. Silvia da Firenze ci chiede: per il calcolo del reddito fiscale annuo di mia madre, devo tenere conto anche del reddito del figlio adulto che lavora e che vive con lei? Dottor Giornetti, la metto subito alla prova, appunto, con un'assistenza allo sportello di Cuore Denari. Sì, buongiorno. Intanto è corretto, purtroppo la condizione del nucleo familiare va a identificare tutti i componenti, la famiglia anagrafica, ovvero le persone che convivono tra di loro, tranne rare eccezioni. In questo caso, anche se il figlio ha un reddito, quindi non è fiscalmente a carico del genitore, vivendo con la madre, il loro indicatore della situazione economica equivalente verrà composto da tutte le persone che vivono. Le due situazioni fanno cumuli in qualche maniera. Invece Michele ci scrive: Maria Carla, se il nuovo sistema comprende anche i debiti, cioè le situazioni di difficoltà economica dei contribuenti, devono essere chiarite appunto nell'ISE, che magari, che ne so, teoricamente è molto alto perché ci sono delle abitazioni di proprietà, ma queste come dire, comunque sono si stanno pagando col mutuo, ad esempio. Diciamo che a livello generale il mutuo viene in qualche modo calcolato e quindi viene scalato dal valore degli immobili, quindi sicuramente se uno ha una casa che vale 300.000 euro e ha un mutuo, questo va scalato, quindi alla fine ci piace questo, Maria Carla, ci guadagniamo tra virgolette. Ma diciamo che l'obiettivo è nobile. Allora, l'obiettivo è nobile, nel senso che innanzitutto secondo me è abbastanza clamoroso che l'anno scorso ci siano stati presentati 6 milioni di ISEE, che secondo me sono tantissimi. Molto spesso l'ISEE viene richiesto dai comuni per prestazioni diciamo che hanno un valore molto basso. E probabilmente non ne vale la pena, nel senso che se io devo avere un posto all'asilo nido per mio figlio e quindi, come dire, tutto questo presuppone un valore economico rilevante, vale la pena presentare l'ISEE. Ma se io devo avere uno sconto di 100 euro, beh, è inutile presentare come dire, certo, la domanda. Quindi invece il fatto che ne siano stati chiesti 6 milioni l'anno scorso, secondo te, secondo denota... sono moltissimi. Noi siamo in 60 milioni, diciamo l'ISEE di solito è per il nucleo familiare, secondo me sono moltissimi. E chissà quest'anno con queste nuove regole che cosa succederà, che comunque partono dal 1 gennaio, lo ricordiamo. 800 24 00 24, raccontateci invece quoziente intellettivo. Il vostro quoziente intellettivo è anche come vi sentite, che cosa, se questo ricometro, possiamo chiamarlo così, Maria Carla? Sì. Ecco, insomma, vi mette un po' di agitazione o invece vi dà una certa tranquillità, vi dice alla fine, no, ci guadagniamo un po' tutti, almeno è Speriamo che sia più equo. Ricordiamo che poi, come dire, le varie amministrazioni, comuni, eccetera, fisseranno un parametro, una soglia a partire dalla quale o al di sopra della quale non si ha diritto alla prestazione agevolata. Quindi, come dire, il ricometro fissa i paletti essenziali, come si forma l'ISEE, ma il valore dell'ISEE per l'accesso alla prestazione agevolata viene determinato dalle singole amministrazioni, cioè sarà il comune che mi dice quanto sarà il mio limite ISEE per accedere alla prestazione agevolata all'asilo nido. Tra l'altro, sì, no, poi dopo ricordo altre cose per cui questo strumento è necessario. Sì. Lo scopriremo, come si dice, strada facendo, ma a proposito di povertà e di ricchezza, che noi oggi abbiamo invitato come protagonisti della nostra puntata, perché parliamo degli indicatori dell'ISEE, del quoziente intellettivo, pensa che c'è una ricerca, uno studio internazionale pubblicato su Science, che non è una rivestina proprio da quattro soldi, no, direi, che dice che le preoccupazioni e la mancanza di denaro mettono un freno, per così dire, all'attività dei neuroni, facendo scendere il quoziente intellettivo. In linea con noi abbiamo la dottoressa Maria Giovanna Luini, scrittore, medico e comunicatore scientifico dell'OIEO, Istituto Europeo di Oncologia di Milano. Buongiorno, bentornata. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno Deborah, buongiorno Nicoletta. Ricca o povera, o se preferisce, cervellona o asinaccia? Una cosa media, fluttuante, va tutto e giù. Però è vero che le ricerche, c'è questa molto importante, ma ce ne sono anche altre, direi altrettanto importanti nei loro risultati, che dicono che il quoziente intellettivo, che è misurabile, lo state dicendo voi stessi, va su e giù anche in base alle preoccupazioni economiche. Pensiamo per esempio a questa ricerca degli Stati Uniti che ha misurato il quoziente intellettivo di 400 volontari che erano stati divisi in due gruppi in base a un reddito, che era un reddito basso, inferiore ai 15.000 euro annui oppure più alto. Bene, ad alcune di queste persone prima è stata posta una domanda un po' subdola, alle persone con reddito basso, attenzione, la domanda era: che cosa faresti tu se ti si rompesse la macchina? Oppure che cosa faresti tu se all'improvviso dovessi sostenere una forte spesa? Ebbene, è bastata quella domanda per ridurre il quoziente intellettivo delle persone che avevano ricevuto la domanda, sia rispetto alle persone nel gruppo, diciamo, più ricco economicamente, sia rispetto alle persone con reddito pari, però che non avevano ricevuto la domanda, come se essere messi in crisi all'idea di una spesa avesse davvero rallentato le prestazioni del cervello. Ecco, io ho detto un po' paralizzato i neuroni, insomma. Sì, esattamente così, ma in effetti l'inibizione dell'intelligenza è nota, ci sono delle cause che possono inibire l'intelligenza. Vorrei far riflettere su uno studio indiano che più o meno è simile, questi sono 464 contadini indiani che sono stati intervistati con la misurazione del quoziente intellettivo prima e dopo il raccolto, cioè quando erano più poveri, cioè prima, e poi più ricchi dopo. Ebbene, l'intelligenza nella stessa persona poteva crescere addirittura di 10 punti. Quindi diciamo che questa ricerca dimostra un po' il contrario di quello che pensa il sindaco di Londra. Ma guardi, sul sindaco di Londra non le dico. Allora, diciamo solo che un orso, due mele, un orologio sono bastate a metterlo in difficoltà. Ma anche noi, dottoressa Luini, se lei ci seguirà nel corso della puntata, certo, magari in macchina, ci misureremo con questo orso, con queste mele, con questo orologio, e vedremo che cosa capita. Dottoressa Luini, grazie per essere stata con noi. Grazie a voi, buongiorno. 800 24 00 24, ISEE, io ho sempre detto ISEE, vedi? ISEE alla francese. Invece si dice ISEE, l'ho sentito a Radio 24. Vabbè, ma noi possiamo dire come vogliamo. Va bene? ISEE, olè! Lo rendiamo più digeribile ai nostri ascoltatori. E quoziente intellettivo, qua abbiamo un grandissimo esperto, il professor Iannoccari di Assomensana, che ci racconterà che cos'è l'intelligenza. Ma dato che ormai l'abbiamo iniziato un po' a scoprire, non ce n'è una, ma ce ne sono tante, la teoria delle intelligenze multiple, addirittura 9, ci aiuterà a capire, io secondo me ne ho solo 5, però ci aiuterà a capire qual è l'intelligenza che ci caratterizza e quale dovremmo invece un po' allenare e potenziare. Beh, però 5 su 9 sono tante, non sono mica poche. Ma poi, mi sono allargata un po'. Brava, poi sentiremo Alberta da Roma, Rita da Rovigo, Gabriele da Roma pronti ad intervenire sui temi di stamattina, ma adesso è tempo di mercati finanziari. Cuore e denari. Romolo mi piace, ma ha un brutto carattere. Stasera a cena ci ho pure litigato. Salvatore invece... Salvatore mi piace pure lui. Ti piacciono tutti e due? Lo vedi che non lo sai nemmeno tu quello che vuoi. Hai ragione. Poveri Mabelli. Strepitoso, uno dei miei film preferiti di sempre. Diretto da Dino Risi, te lo ricordi? È stato il primo di una trilogia che comprendeva anche Belle ma Povere e Poveri Milionari. E poi c'erano bellissimi. Renato Salvatori, ci piace. Maurizio Arena a me piaceva ancora di più. E la Marisa Lasi. Esatto, mitica. E allora, Poveri e poco intelligenti, l'infelice battuta di Boris Johnson, il sindaco di Londra. Questo è il tema che ha scatenato anche un po' la nostra intelligenza, la nostra curiosità. Ci siamo messi alla prova per organizzare la trasmissione di oggi. La povertà e la ricchezza si possono misurare con un indicatore che è l'ISE. Ne stiamo parlando stamattina con Maria Carla De Cesari. Si dice ISE. Posso dire? Maria Carla, tu come lo dici? Tu lo scrivi e non hai problemi, perché io lo scrivi sul Sole 24 ore. Di solito sì. No. Io dico ISE. ISE. Giornetti, lei come dice al CAF della CISL, come vengono a chiederglielo? Isee. Eccola là, e te pareva che avevo sbagliato io. Evviva! Quindi, ok, sono scalata di un punto nella graduatoria del mio quoziente intellettivo. Detto questo, poi torneremo Vogliamo a raccontare... Vogliamo chiedere al professor Iannoccari però che cos'è questo quoziente intellettivo. Mi faccia subito un esame qua. Tanto io me ne faccio uno al giorno, ormai mi faccio un check-up al giorno con i medici di ex essere benessere. Bene, allora anche oggi faremo dei test. Beh, intanto è difficile definire che cosa si intende per quoziente intellettivo. Cioè, pensiamo che già dai tempi di Platone si cercava di dare una definizione. Lui diceva che è l'esercizio del bene. Gli psicologi affermano che invece si tratta della capacità di crescere ogni giorno. Sì, però c'è anche un numerino, no? C'è anche un numerino, sì, certo, che è il quoziente intellettivo, che è a base 100. Sì. Teniamo conto che la maggior parte della popolazione, il 95%, si distribuisce tra un punteggio che va da 80 a 120 e soltanto l'1% supera i 130. Sai che Madonna e Shakira hanno 140, mi pare, quindi sono veramente due artiste eccezionali. Sì. Barack Obama e David Cameron hanno 131. Vabbè, Cameron non ha diritto di parola perché là con queste battute che fanno. Un valore superato. Jodie Foster e Nicole Kidman, sì. 132. Sì. Però chi è l'uomo più intelligente del mondo, professore? La signora Voss, la signora Voss ha 238. Chi è la signora Voss? È una la donna più intelligente del mondo. Ecco, da oggi lo sappiamo. È vero che c'è una specie di club dei super cervelloni, sì, dove si può accedere solo se si ha un quoziente intellettivo molto alto. Esatto, che se no non ti vedono, non ti guardano neanche. Ma si incontrano questi qua ogni tanto. Sono coloro che hanno un'intelligenza superiore alla popolazione, cioè è quel 2%, va bene, di privilegiati che hanno un quoziente intellettivo più alto di 130. Tu l'hai mai misurato? No, e sono molto curiosa di sapere dove si va a fare questo lavoro, anche di Rita, misurazione. Rita ci chiama da Rovigo. 800 24 00 24. Rita, buongiorno. Buongiorno a tutti, grazie per l'opportunità. Grazie a lei. Io volevo proprio sapere da cosa si può calcolare un'intelligenza, perché ho sentito prima che parlate di varie intelligenze e mi sono un po' rincuorata. Bravo. Fin dalle elementari mi hanno sempre ho copiato l'esame di quinta elementare e mi hanno bocciato. Poi mi hanno sempre calcolato una che non sapeva niente alle medie, e poi ho preso la pagella d'oro. Allora, quei tempi, io ho 56 anni. Che si è vendicata. E allora mi sono un po' rincuorata. Poi dopo ho formato una famiglia, mi sono data da fare lavorando la famiglia, e allora ho detto un po' so qualcosa, non sono proprio una grande intelligenza né in matematica né, però qualcosa so. Adesso è arrivato mio figlio che ha detto che io sono ignorante perché il mondo è in internet, io non sapendo usare il computer, allora mi ha proprio ferita. Ma questi figli. Allora, professore Iannoccari, intanto provare, cioè non è mai troppo tardi, e imparare ad usare internet potrebbe essere un esercizio straordinario per il suo cervello, professore Iannoccari. Quindi vinca la paura. L'intelligenza è un conto, un talento è un'altra, credo, no? Perché se uno ha un talento non è detto che non ne ha altri e quindi non è intelligente. Che cosa significa? Certo. L'intelligenza è un caleidoscopio, ha molte sfaccettature, non è difficile riuscire a ridefinirla in un'unica abilità, per cui dobbiamo tenere conto che si propone in diversi modi. Infatti, se noi chiedessimo ai nostri ascoltatori di dirci che cosa ritengono essere l'intelligenza o che cosa trovano nelle altre persone che conoscono, che reputano intelligenti, avremmo tante risposte diverse. Sicuramente possiamo fare una distinzione, ad esempio, tra l'intelligenza fluida e l'intelligenza cristallizzata. L'intelligenza fluida è la capacità di adattarsi, di acquisire nuove informazioni, è un'intelligenza che è sensibile anche all'avanzare dell'età. Quindi l'elasticità mentale. L'elasticità mentale, esattamente. Questa forma di intelligenza tende dopo i 60 anni a ridursi, ma c'è una buona notizia, che l'intelligenza cristallizzata, cioè quella che è che ci consente di utilizzare il nostro patrimonio di informazioni, le nostre strategie, invece aumenta con gli anni. È l'esperienza. Quindi è l'esperienza. La fluida diminuisce, la cristallizzata aumenta. Incredibile. Però, professore, dato che ne abbiamo tante, ne abbiamo detto 9 almeno, l'intelligenza linguistica, logico-matematica, spaziale, corporeo-cinestesica, musicale, interpersonale, intrapersonale, naturalistica, e chi più ne ha più ne metta, vogliamo provare un po' con i suoi suggerimenti a fare una sorta di autovalutazione di quella che è l'intelligenza, che una delle tante che abbiamo più spiccata, in modo da capire quali andare ad allenare, a stimolare? Sicuramente proponiamo adesso una prova che ciascuno può adoperare subito per verificare qual è il suo stato di intelligenza. Maria Carla, attenta, eh. Guarda che già scrive. Vado. Dai, allora. Allora. Carmelo, okay. Carmelo, lascialo fare la regia, perché se ci Carmelo, si distrae, guarda, qua è una tragedia. Guardaci qua. Allora, vada, professore. Bene. Si tratta della capacità di mettere insieme delle informazioni differenti. Ad esempio, prendiamo due parole, che può essere, se vogliamo, lavandino e navi. Ok. Quali sono le condizioni che mettono insieme questi due elementi? Devo fare una frase? Chiedo di trovare tre condizioni che possono essere comuni a questi due devono elementi. Essere insieme ad una, in una frase? No, devono essere, cioè devono avere delle caratteristiche uguali, ad esempio. Vedi che entrambi... fai delle domande sciocche. Lo so, ma io voglio... ma servo a quello io. Ma dai, sto scherzando, ovviamente. No, però lavandino è, mi stavi interrogando, non la frase, cosa ma la condizione. Comune? Esatto, che cosa hanno in comune? Un elemento è l'acqua. È l'acqua, perfetto. Brava. Quindi questo è il primo elemento. Un altro elemento qual è? Sono le lettere. Non ditele, non ditele tutte. Le lettere, in effetti. Ci sta stracciando, Nicola. Io mi alzo e me ne vado, te lo dico. Dai, Maria Carla, io faccio il tifo per terza, te. Mi manca la terza. Le lettere. Le lettere di navi sono contenute in lavandino. Poi un'altra possibilità. Io sono veramente a pezzi, perché non avrei mai pensato alla questione delle lettere. L'acqua mi è venuta in mente anche a me, però le lettere, per esempio, la combinazione non avrei mai riflettuto. Possono stare anche in vicine, nello stesso luogo. Nelle navi, lavandino della nelle nave. Navi ci sono i lavandini. 800 24 00 24. Questo praticamente l'abbiamo fatto, suggerito ad Anna, no, esatto. A Maria Carla. Allora, che adesso che facciamo fare un altro, poi invitiamo gli ascoltatori magari a misurarsi. Ah, sì, esatto. Vai, sì. Anzi, vada. Ok, un'altra coppia può essere televisore, pavimento. Questa facile, dai. Televisore, sì, pavimento. Ok, allora scrivete. Magari lanciamo questa sfida ai nostri ascoltatori, li invitiamo poi a raccontarci quelle combinazioni che hanno scoperto, appunto, in cui queste due situazioni si mettono insieme. Li facciamo questo? Chiamare magari nella seconda parte del programma e mettiamo alla prova il loro quoziente intellettivo. Allora raccogliamo le vostre domande, i vostri dubbi, anche le vostre esercitazioni all'800 24 00 24. Ma se sapete già che qualcosa si è un po' spento, state perdendo qualche colpo e la memoria che vacilla, non vi ricordate le cose, non avete entusiasmo ad apprendere nuove, insomma che la vostra intelligenza ha bisogno di una sorta di aria fresca, di integratore, noi ce l'abbiamo qua in carne e ossa, perché il professor Giuseppe Iannoccari che ci suggerisce gli esercizi per fare al nostro cervello sempre bella figura. Poi se ai centri di assistenza fiscale non abbiamo, come dire, un grande quoziente dottor Giornetti, quello che volevo arrivare a dire è che per stare lì bisogna avere una grande pazienza, immagino. No, assolutamente, mi preoccupano tre domande sulla parte. Quindi. Televisore pavimento non le sta trovando ancora. Ah, ma si è appassionata trovare. Anche lei lì dietro, lì al telefono, l'abbiamo un po' abbandonata per qualche minuto. Senta, benissimo. Ma la terza di lavandino e navi, lei che cosa diceva? Esatto. Anche vasca avrei detto in qualche modo. Ecco, visto, però lui, perché lui però stava lì, ci poteva riflettere, non aveva la pressione che avevamo noi qua con un esaminatore davanti, per cui forse la tranquillità. Sì. Senta, poi torniamo su Lise, perché ci sono delle domande anche per lei, naturalmente, su Lise, chiamiamola la francese. E adesso noi andiamo a sentire cosa succede sulle strade italiane. Cuore e denari. Ci piacerebbe cantare una canzone intelligente che segua un filo logico importante. Siamo tutti intelligenti, anzi abbiamo tante intelligenze. Su quale vi sentite più forti e su quale invece pensate di avere qualche difficoltà? Intanto allenatevi, perché a partire dalle 12 andremo in palestra insieme al professor Iannoccheri, che ci ha proposto proprio di cercare dei collegamenti tra due parole molto tra loro molto distanti, che sono televisore e pavimento, almeno tre. Questa è una sorta veramente di allenamento, perché va a stimolare, professor Iannoccheri, la flessibilità mentale, quindi il pensiero laterale, creatività. Sì, esatto, e anche gli aspetti della memoria semantica. È molto importante perché riesce a sganciarci da quello che è un nostro freno a mano, il freno a mano dell'intelligenza, che è la fissità funzionale, cioè l'attribuire ad un oggetto solo una funzione, una o poche funzioni. In realtà gli oggetti possono avere tante funzioni diverse, è importante poterle scovare, poterle trovare ed elencare. Questo ci aiuta a abbassare il nostro freno e lanciare l'intelligenza via, senza freni, via a ma portare... Ci chiama, sì, il nostro Marco, ci scrive. Dove Marco sta? Da Ferrara, ormai lui è un po' innamorato di noi. Sì, esatto, non lo dice, però no, lo dice. Io leggo cosa scrive. Buongiorno. Perché io stavo invece soffermandomi su un altro ascoltatore. Dimmi. È tutta numeri, Deborah, vedi, la cuore denari. Io sono il cuore che mi commuovo, faccio finta di credere. A Marco che ci scrive: buongiorno mie regine, dal vostro fante di picche. Sì, questa la scrive spesso. Bellissimo. No, vabbè. Io invece leggevo su Facebook che Corinna ovviamente mi dà ragione sulla pronuncia di Ise, perché è chiaramente deve essere pronunciato con le due E finali scandite come zoo, dice lei. Però detto questo, ormai nel gergo comune parliamo di Ise. Detto io questo, torniamo a calcolarlo. Maria Carla, sì, calcoliamolo. Diciamolo come vogliamo, l'importante è che lo calcoliamo bene, vero Giornetti? Allora, senta, tra le novità appunto più importanti, ce lo diceva anche prima Maria Carla De Cesare, adesso la casa entra un po' più come dire in considerazione nell'ambito del rilascio di questo documento. Che peso ha appunto la nostra abitazione, soprattutto come era possibile che fino a questo momento non fosse considerata la proprietà immobiliare? No, anche nell'ISE attuale, che avremo per altri 4 mesi, perché l'ISE nuovo entrerà in vigore dopo 4 mesi dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, quindi tendenzialmente da aprile. Quindi già chi deve cominciare ad iscrivere magari a gennaio e febbraio i propri figli alla scuola materna per l'anno successivo, a utilizzare quello vecchio, continuerà a utilizzare, magari con qualche vecchio. Penalizzazione. Ok. Detto questo, la casa. L'abitazione principale, così come gli altri immobili, sono uno dei parametri più rilevanti nell'ISE attuale, lo saranno ancora di più nell'ISE futuro, chiamiamolo così, nel nuovo ISE. Entrambi avevano una franchigia relativamente al mutuo residuo, quindi viene valorizzata. La grossa differenza è che avrà un peso specifico maggiore nel nuovo ISE, in quanto l'immobile, il valore verrà ottenuto ai fini IMU e non più ai fini ICI, quindi ci sarà una valorizzazione della rendita catastale del 160% anziché del 105%. Questo porterà ad avere un incremento del proprio ISE in base alla proprietà di immobili. Sugli immobili il nuovo ISE prevede alcune franchigie, così come le prevede quello attuale. Le nuove franchigie del nuovo ISE sono il mutuo residuo per costruzione, più un'ulteriore franchigia relativamente alla componente del reddito, che viene innalzata in base alla numerosità del nucleo familiare. A proposito di numerosità, Giornetti, il numero dei figli influisce, quindi le famiglie numerose sono più agevolate. Mi sta a cuore perché noi abbiamo dedicato, pensi, non so puntata. Se lei era all'ascolto, e se non lo era me ne dispiace molto. Gli manderemo il podcast. Abbiamo fatto proprio un'intera puntata sulle famiglie numerose. Ma non numerose di 3-4 figli, numerose con 10 figli. Perché per essere definita numerosa è dai 4 figli in su. Quindi che nuove prospettive hanno con il nuovo ISE i nostri ascoltatori con famiglie numerose, con tanti figli? Partiamo dal decreto Monti, cioè il decreto istitutivo, il decreto Salvi Italia, che nel 2011, proprio nel decreto dove veniva richiesta una modifica dell'ISE per avere una maggiore selezione dei beneficiari, perché il problema principale oggi di un indicatore è che perde l'effetto qualora non abbia proprio la funzione di selezionare. Sì. Un terzo, il 10% degli ISEE in Italia, oggi in Italia quasi una famiglia su tre ha un ISEE, come dicevate all'inizio della trasmissione, ha un ISEE pari a zero. Quindi in un periodo di mancanza di risorse è chiaro che nel definire il più povero era necessario implementare questo indicatore con ulteriori elementi che potessero differenziare la condizione economica anche delle famiglie meno abbienti, certo, perché le risorse sono minime. Evidentemente. Questo decreto Monti suggeriva, cosa che è avvenuta, di favorire due tipologie, nuclei familiari numerosi con figli e di tenere in considerazione la condizione di disabilità. Tra l'altro, questo, in tutte le detrazioni e deduzioni direttamente nel calcolo dell'ISE vengono valorizzate maggiormente tutte le componenti che hanno la presenza di disabili certo, e di minori, come non dicevamo solo. Poco allora tanti. È chiaro, devo dire che siete stati molto chiari e abbiamo però degli ascoltatori che vogliono intervenire, esatto, per raccontarci delle situazioni particolari e noi ci calliamo nella loro realtà. Come? Perché molto intelligentemente lo facciamo naturalmente. Perché sennò Cuore Denari che ci sta a fare? Gabriele, buongiorno. Gabriele da Roma. Sì, magari rapido. La domanda, esatto, poi le rispondiamo nella seconda parte del programma. Ci dica. Buongiorno a voi, Gabriele da Roma, e vi ringrazio dell'opportunità, un chiarimento che possa essere utile sia a me ed altre persone nel mio stesso caso. Io sono separato con un figlio di 23 anni che frequenta l'università, mia moglie ha un ISEE molto alto e tant'è vero che la quota universitaria di mio figlio è quasi al livello massimo. Nel mio caso, dovendo io giustamente partecipare al 50% alle spese di istruzione di mio figlio e non avendo un reddito così alto, devo equipararmi e pagare il 50% comunque, visto avendo io un reddito molto più basso, e quindi equipararmi a quello che è un ISEE di mia moglie così alto? Se questa domanda penso possa essere utile anche ad altre persone nel mio stesso caso. Infatti, allora, chi mi risponde in 30 secondi? Andiamo a Giornetti. Rispondere velocemente. Certo. 30 secondi, vai. Una delle novità è stato introdotto il famoso ISEU, che è un calcolo dell'ISEE particolare per le prestazioni al diritto allo studio universitario e per l'accesso alle tasse, dove i limiti per considerare lo studente autonomo, quindi non considerare gli importi dei redditi e del patrimonio dei genitori, è innalzato ai 6.700-7.000 euro in base alla riparametrazione. Quindi cosa può fare Gabriele? Se purtroppo lo studente non raggiunge questi redditi, si presume che qualcuno lo aiuti per il sostentamento all'università e pertanto dovranno essere calcolate tasse e prestazioni in base alla condizione economica dei genitori. Grazie, è stato preciso, ma ne riparliamo perché dobbiamo dare la linea al GR. A dopo. Cuore e denari. Eccoci ritrovati in diretta, ancora buongiorno a tutti da Deborah Rosciani e da Nicoletta Carboni. Il Cuore Denari di questa mattina ha messo insieme due termini che sono uguali ma che definiscono appunto almeno concetti diversi nelle declinazioni che abbiamo scelto. Parliamo di quozienti, parliamo di quello intellettivo, ma parliamo anche di quello che misura la situazione economica delle famiglie, il nuovo ISEE. E tra l'altro, prima di approfondire i termini sul quoziente intellettivo, sul quale si sono appassionati anche molti ascoltatori, capita sempre quando c'è il professore. Anche noi qua in studio. Però lei è avanti, Maria Carla Ciabattuta. Maria Carla, veramente sorprendente come sempre, ma io lo sapevo già. E dobbiamo completare forse un po' meglio la risposta all'ascoltatore che ci ha posto il suo caso in precedenza, sul quale Dino Giornetti ci ha già detto insomma come si deve comportare questa famiglia che ha. Famiglia di separati che ha un figlio che va all'università, però l'intera retta grava praticamente nella misura massima perché vale l'ISEE della ex moglie di questa persona che è al massimo. Ma come potrebbe un po' risparmiare persona, Maria Carla? Forse si potrebbe chiarire questo, nel senso che la base dell'ISEE è la famiglia anagrafica, quindi nella famiglia anagrafica, se il padre e la madre sono legalmente separati, come dire, la famiglia anagrafica viene distinta, quindi il figlio fa parte della famiglia anagrafica del genitore con cui convive. Mi poi chiedo a Giornetti se questo ragionamento è corretto. Mi sembra però che l'ascoltatore in qualche modo avesse posto sullo stesso piano l'ISEE, che come dire serve per calcolare le tasse universitarie, da diciamo un criterio per la partecipazione da parte di questo padre alle spese universitarie del figlio. Sono due concetti che non vanno confusi. Molto, certo. Allora, 800 24 00 24, vi aspettiamo, parliamo di quozienti, o meglio di indicatori. Quoziente intellettivo, lo facciamo presto con il professor Ian Nocker. Intanto voi scatenatevi, allenatevi, preparatevi, dateci le soluzioni, e naturalmente con gli esperti della parte dei denari, Dino Giornetti e la nostra collega del Sole 24 Ore. Natura, nutrizione scientifica vi presenta Essere e Benessere. Il medico mi ha controllato, mi ha fatto tutte le analisi e mi ha tranquillizzato. Mi ha detto, dice, lo vede, l'elettroencefalogramma è piatto. Ah, vabbè, meno male, almeno questo. Però, a quanto pare, nella TAC si è evidenziato che io qua in testa c'ho tipo una noce grande così, piccola, colore nocciola, che lui clinicamente l'ha chiamata cervello, può essere? No, non lo so. Che dice che addirittura che è una cosa che io ho da quando ero piccolo, da quando la nasce. E tu non l'hai mai saputo? Ma se non mi ha dato mai fastidio, come me ne accorgevo? Carini, Ficarra e Picone. Cosa fate voi per mantenere il vostro cervello in forma, o per contro negli ultimi tempi? Vi è capitato di pensare che il vostro cervello stia perdendo colpi, un vuoto di memoria, la difficoltà a concentrarvi, a ricordare eventi, parole, nomi, il testo di una canzone? Allora, dopo aver cercato di dare una risposta al test che ci ha suggerito il professor Ian Nocker, molti di voi ci stanno scrivendo, quindi candidatevi all'800 24 00 24, professor Ian Nocker. Ma abbiamo capito che dobbiamo questo cervello tenerlo continuamente allenato, facendogli fare delle cose un po' diverse dall'ordinario. Questo era tipo un po' il calcolo dell'ISEE. Ecco, questo vedi? Questo che però non riusciamo davvero a fare noi, Maria Carla. No, dove esatto. Andiamo? Ma direi che andiamo. La domanda per l'ISEE si può fare in comune, si può fare all'università, si può fare. Ma non si può tirare fuori un documento da internet e compilarlo individualmente. Ma si potrebbe anche chiedere online all'INPS, però insomma è tanto comodo andare al CAF, per esempio. Quindi. E non si paga nulla. Credo che anche al CAF non si paghi nulla, però, Giornetti mi deve fare il CAF non perché c'è, lei però. Magari era lì che cercava di creare, no, le cose tra lavandine e pavimenti, e invece era pronto. A proposito di prontezza, professor Ian Nocker, è pronta anche a lei, prontissimo a raccontarci che cosa possiamo fare, di fargli fare di diverso. Un po' il nostro cervello ha bisogno di stimoli, e quindi questa è la ragione per cui lei ci ha suggerito di prendere due parole tra loro distanti che non hanno nesso e metterle in connessione tra loro, perché il cervello fa in questo modo, si allena, si connette. Sì, certo, si connette, e come giustamente dice lei, Nicoletta, fare cose nuove, cose diverse, è importante nutrire il cervello attraverso la novità, perché è l'unica condizione che stimola il nostro cervello. Ma ci sono anche altri accorgimenti che noi possiamo utilizzare, ad esempio dedichiamoci alle distrazioni. Allora, ogni tanto lasciamo che la mente vaghi per conto proprio, perché è importante per mettere insieme delle idee che solitamente tra di loro non comunicano, per cui possono sorgere nuove soluzioni, specialmente se abbiamo una questione da risolvere, oppure apprendiamo. Così i neuroni si abbracciano, si stringono in un abbraccio. No, ogni tanto Nicoletta mi regala l'abbraccio tra neuroni, però a me piacciono queste immagini, no, perché comunque mi stimolano. Vedi? No? E quindi faccio tutto il lavoro che il nostro ospite ci sta indicando. Sì. Poi aumentiamo anche il battito della frequenza cardiaca, facciamo qualcosa che possa aumentare il nostro battito, perché questo dà beneficio per tutta una serie di ragioni fisiche che più o meno sono note, così come diventare esperti di qualche cosa che sia un hobby, però non più il lavoro, ma qualcosa di diverso, di insolito. Quindi fare un po' anche di attività fisica, attività perché fisica. Il battito aumenta e il cervello viene irrorato. Sì. ci però sono se le... batte troppo perché uno si è innamorata e il cervello va in tilt perché poi non siamo, ma andiamo però a anche Paolo. Quello può stimolare magari assolutamente dico, infatti quoziente infatti, intellettivo schizza le stelle schizza con l'innamoramento è vero hanno una cosa in comune, innamoramento e intelligenza, che entrambe parlando non si sviluppano, è solo praticandole che crescono. Ma quante ne sa? Ma ne sa, eh? Ma, va ma. Bene, vediamo quante ne sa Paolo, che ci chiama dalla provincia di Milano. Giornetti, lei è pronto con i collegamenti tra lavandino e pavimento? No, non era lavandino, era pavimento, pavimento e televisore. Televisore. Ecco, bravo. Già, la memoria, già la memoria è buona, Giornetti, ma lei mi può fare di più. Ma noi tutto il giorno, Nicoletta, sopra le nostre sudate carte. Come possiamo farcela? Paolo, buongiorno, dalla provincia di Milano. Paolo. Buongiorno. Buongiorno magnifiche, volevo sottoporle un mio problema personale ed è questo, io ho sempre avuto un quoziente di intelligente leggermente superiore alla media. Diciamo ora, così. Adesso sono a... anche a modestia non stiamo messi male. No ma ecco, sono abbastanza datato, no? E mi sono accorto che pensavo che i miei neuroni incominciassero a rallentare, no? E a questo punto mi sono accorto che ecco, l'interesse e le specializzazioni si sono aumentate, ma anche le capacità. Se io osservo dei lavori che ho fatto ultimamente, no? Se li ho rifatti qualcheduno, ma in maniera migliore. Ma tipo ecco, che lavori, Paolo? Cioè, su che cosa misura? Tutti i tipi di hobby di questa terra. Per esempio, ultimamente dipingevo. Mm. Adesso mi sono messo in mente di dipingere delle adesso icone. Adesso fai capolavori? Delle icone però utilizzando ancora le procedure che utilizzavano nel 1400, per cui uovo, quindi, insomma, Paolo... lattice di fico, eccetera, dei capolavori, bellissime. Quindi Paolo però, continua ecco... a migliorare, ma mi dica una cosa che non va, Paolo. Cos'è che la preoccupa tanto? Ecco, due problemi. Prima di tutto sono diventato abbastanza, ecco, i rapporti interpersonali non riesco più a tollerare persone, le ipocrisie eccetera. Ma quello e questo no, ma possiamo ha fare poco parecchio, lo credo. Sto invecchiando. E poi l'altro ecco, questo e poi un'altra cosa che devo dare una conferma ed è vero, le disponibilità finanziarie in eccesso limitano le capacità intellettive. Avendone ecco, magari a qualcuno che adesso non ha molto, magari potrebbe non essere insomma, d'accordo con lei. La necessità aguzza l'ingegno, ecco, professor Iannoccari, quindi sviluppando l'intelligenza migliora. Paolo è partito già da un quoziente intellettivo. Ma è arrivato al punto alto in cui si preoccupa. Però le relazioni sono nutrimento per il nostro cervello, caro Paolo. Sì. Quindi bisogna... Faccia meno capolavori d'arte e magari si dedichi un po' di più ai suoi amici. Esprima le sue opinioni, accetti che gli altri possono averne di diversi, anzi vada a cercare proprio gli ambienti dove trova persone che hanno opinioni diverse dalla sua e si confronti. In questo modo vedrà che renderà più flessibile la sua tolleranza nei confronti di ciò che pensano gli altri e magari anche lei avrà la possibilità di ampliare il suo bagaglio di conoscenze che è già abbastanza elevato. Allora, io voglio dire, Donatella, senti, sta attenta Maria, televisore e pavimento, parole in comune, è pronto professor Iannoccari? Così vedo anche se memorizza, quante parole memorizza di seguito, perché anche questo è un test. Ad esempio i numeri di solito uno ne memorizza 5 di fila, vero professor Iannoccari? Ormai vie, vite, veti, voi, te, poi presa del televisore, presa pavimento. Queste sono le tre cose che ci ha dato Donatella. Ci va bene per il pavimento e il televisore? Straordinario, veramente. Ha copiato un po' sulle parole che avevi suggerito tu, presa del televisore, presa a pavimento. Va bene, gliela abbuoniamo. Adesso ne cerchiamo qualche altra su Facebook, magari. I nostri politici, scrive Riccardo, lasciano vagare il cervello e ce ne siamo accorti tutti. Lei, a lei cosa è venuto in mente lasciate libero il cervello? Non infieriamo su un tema che è già molto gettonato. Sentiamo qualche altro ascoltatore. Vuoi Jessica o sentiamo Armando? No, io Jessica. Andiamo, Jessica. Jessica, buongiorno. Buongiorno, grazie mille per la possibilità. Io ho una domanda. Senti che voce delicata e carina che ha Jessica. Sì, ho anche un po' perso la voce. Malanni di stagione. No, litigando con la mia mamma, che appunto è la domanda che volevo fare, perché una donna sempre magari non intelligentissima, però sveglia. No, ma parli per, scusi, perché voi figli fate in fretta. No, mia mamma non intelligentissima. No, ma magari ognuno dire, parli non è per che aveva sé. Come il signore un quoziente intellettivo alto, più non alto sappiamo. Della media. Ma magari aveva delle ottime relazioni interpersonali che invece l'altra esatto, persona mancava. Una donna normalissima, sveglia, un'imprenditrice che aveva sempre cose a cui pensare. E lei adesso ha 53 anni, quindi è ancora giovane, da un paio di anni si scorda totalmente le cose, bisogna ripetergliele 100 volte, non capisce, a volte fa anche domande veramente sciocche che io dico mamma noi diciamo ci fai o ci sei? Perché... vabbè. Allora professor Iannocchi, noi abbiamo scherzato con Jessica, ma ci sono la memoria, insomma, se non siamo attenti è facile dimenticarsi delle cose, poi ne abbiamo dedicato tante puntate, lo stress non aiuta la nostra memoria, la nostra capacità di attenzione e di concentrazione che sono necessarie per memorizzare ma anche per ripescare i ricordi e le cose memorizzate. Ci sono però dei segnali che ci racconta Jessica che dovrebbero essere un po' valutate. Un conto è dimenticarsi qualche volta, un conto invece è magari fare delle domande che sembrano un po', no, fatte un po' senza fuori, domande astruse. Che indicazioni può darci per riconoscere qual è il limite fisiologico e quando inizia, non quello patologico, ma quell'area in cui sarebbe opportuno rivolgersi ad un esperto, anche solo per avere, no, più chiarezza o delle rassicurazioni? Sì, è la frequenza con la quale capitano questi piccoli difetti quotidiani di dimenticanze, smemoratezze oppure ripetizioni o domande, diciamo, apparentemente senza senso. Se capitano spesso e a volte inficiano anche quella che è l'autonomia, la qualità della vita, è bene rivolgersi ad uno specialista. È molto semplice, non basta richiedere una valutazione, di solito viene fatta in quasi tutti gli ospedali, una valutazione di tipo neuropsicologico per valutare qual è lo stato di efficienza del nostro cervello in quel momento. Ci possono essere delle contingenze che in qualche modo rallentano o mettono a dura prova la nostra efficienza, per cui se è un periodo transitorio possiamo serenamente aspettare che passi. Diversamente, ecco, cogliamo questi segnali per chiedere un esame e avere una risposta. L'età della signora è molto giovane, per cui è facile anche poter intervenire per aiutarla a mantenere ancora efficiente. Certo. Max ci scrive: normale, quando la mente ha lavorato tanto, soprattutto nel commercio, sembra facile, succede anche a me a volte, il ritmo frenetico della vendita, e ci auguro anche buon fine settimana. Quando si rilassa la mente, magari va incontro un po' a questi episodi che magari non nascondono nulla di patologico, dottore, non lo so, però può essere un rallentamento, insomma, anche del ritmo. Sì, infatti c'è uno stato di attivazione che ci rende, diciamo, capaci di dare il massimo, che è una sorta di attivazione, quando noi ci sentiamo, diciamo, attivi, performanti, e quindi riusciamo a dare il meglio. Se ci rilassiamo invece questa attivazione viene meno, e quindi possono capitare. Professor Iannocchi, ci dia un compitino per tenere sempre il nostro cervello ben allenato, per sviluppare magari delle funzioni che non teniamo allenate. Capita, come quando si va in palestra, improvvisamente si scopre, facendo degli esercizi, l'esistenza di muscoletti che neanche sapevamo che esistessero. Però anche quelli sono fondamentali, perché a loro volta sorreggono altri. Quindi cosa dobbiamo fare? Una volta al giorno un esercizietto tipo questo delle due parole? Questo delle due parole è facilissimo da fare, perché potete scegliere voi le parole che più vi piacciono. Possiamo anche aumentare la nostra velocità di elaborazione delle informazioni attraverso, per esempio, lo spelling di una parola. Prendiamo una parola, ad esempio cuore denari, un titolo, e facciamo lo spelling C-U eccetera eccetera, segniamo quanto tempo abbiamo impiegato per fare questa per fare lo spelling, dopodiché facciamolo al contrario. Ecco, quindi saremo I-R e vai difficile no A Magari iniziamo con parole corte, poi man mano allunghiamo. Certo. Ecco, il tempo che impieghiamo nel fare lo spelling al contrario non deve essere il doppio di quello che abbiamo impiegato per farlo in modo lineare. Quindi se impieghiamo 10 secondi a fare lo spelling di cuore e denari, non dobbiamo impiegarne più di 20 per farlo al contrario. Io inizio con Ala. Ape, un po' più difficile, ma vabbè. Ce la facciamo. Tra l'altro, il professor Iannoccheri voleva ricordare che il 5 di gennaio sono alla mostra Brain Brand di Milano. Con dei test per i bambini. Sì, dai 5 ai 12 anni e lavoreremo sul ragionamento, logica, intelligenza, eccetera. Benissimo. Prima della Befana. Allora, per tutte le domande su Lise o Ise, se volete scriverci, le gireremo ai nostri esperti, magari Dino Giornetti, che ci ha ascoltato per tutto questo, per tutta la durata del nostro programma, ci aiuterà anche a risolvere casi concreti. E naturalmente scriveteci anche cosa ne pensate, appunto, di come abbiamo sviluppato il tema del quoziente intellettivo stamattina. Grazie. Grazie a tutti, a lunedì.